Caterina. La vecchia signorina Noiosetti abitava in una casa stretta e lunga, ai margini della città, e aveva una servetta di nome Caterina. Un giorno, Caterina venne mandata a pulire la soffitta e dalla finestrella vide per la prima volta i prati che circondavano la città. Quando ebbe finito, scese e chiese alla signorina Noiosetti: «Padrona, potrei andare nei prati?» «Oh, no!» replicò la signorina. «Non ci devi andare proprio!» «E perché no, padrona?» «Perché potresti incontrare la donna verde! Chiudi il cancello e torna al tuo cucito!» La settimana seguente, Caterina andò ancora a pulire le finestre della soffitta e vide il fiume che scorreva nella valle. Quando ebbe finito, scese e chiese alla signorina Noiosetti: «Padrona, potrei andare fino al fiume?» «Oh no, non devi andare mai, mai al fiume!» disse la signorina Noiosetti. «Perché mai, padrona?» «Perché potresti incontrare il re del fiume! Spranga la porta e lucida l'ottone!» La volta seguente, quando Caterina pulì le finestre della soffitta, vide in lontananza i boschi che ricoprivano le colline. E quando ebbe finito, scese e chiese alla signorina Noiosetti: «Padrona, posso andare nel bosco?» «Oh no, non ci devi andare mai!» rispose. «Oh padrona, perché no?» «Perché potresti incontrare il ragazzo danzante! Chiudi gli scuri e pela le patate!» La signorina non fece più salire Caterina in soffitta e la tenne chiusa a rammendare le calze, a lucidare l'ottone e a pelare le patate. Quando la signorina Noiosetti morì, Caterina dovette cercarsi un altro posto per vivere. La sua nuova casa era in città, dall'altra parte delle colline, e siccome Caterina non aveva soldi per prendere un mezzo, dovette andarci a piedi, ma non passò dalla strada. Piena di curiosità, andò nei prati e la prima cosa che vide fu la donna verde che piantava fiori. «Buongiorno, Caterina», le disse. «Dove vai?» «Traverso la collina per andare in città», rispose Caterina. «Se avevi fretta, saresti dovuta andare per la strada», disse la donna verde, «perché io non lascio passare nessuno dai miei prati, a meno che non pianti un fiore». «Lo farò volentieri», disse Caterina, e presa la paletta della donna verde, piantò una margherita. «Grazie», disse lei, «e ora cogli pure ciò che vuoi». Caterina colse un mazzolino di fiori e la donna verde disse: «Per ogni fiore che pianti, devi coglierne 50. Caterina proseguì il suo cammino e arrivò alla valle dove scorreva il fiume. E la prima cosa che vide fu il re del fiume fra le canne. «Buongiorno, Caterina», disse. «Dove vai?» «Oltre la collina in città», rispose. «Saresti dovuta rimanere sulla strada se avevi fretta», disse il re del fiume. «Perché nessuno può passare questo fiume senza cantare una canzone?» «Lo farò volentieri», disse Caterina, e si sedette fra le canne e cantò. «Presto presto una mattina, quando il sole scintillava, una bella ragazzina nella valle cantava: oh, ti prego non fuggire, non farmi più soffrire, perché sei così crudele, con chi è zucchero e miele?» «Grazie», disse il re del fiume. «Ora stai ad ascoltare me». Si sedette e cantò una canzone dopo l'altra mentre la giornata passava. E quando ebbe finito le disse: «Per ogni canzone che canti devi ascoltarne 50. Caterina riprese il cammino verso la collina. E quando arrivò nel bosco, la prima cosa che vide fu il ragazzo danzante. «Buonasera, Caterina, dove vai?» «Vado oltre le colline, in città». «Avresti dovuto camminare per la strada se volevi arrivare prima di domani mattina, perché io non lascio passare nessuno per i miei boschi se non si ferma a danzare». «Ballerò con piacere», rispose Caterina, e ballò come meglio poteva. «Grazie», disse il ragazzo danzante. «Ora guarda me». E danzò fino al sorgere della luna, e danzò tutta la notte, finché la luna Cicoricò. Al mattino la baciò e disse: per ogni danza che balli ne devi guardare 50. Caterina poi andò in città e diventò la servetta di un'altra signorina Noiosetti, che non voleva mai lasciarla andare nei prati, né al fiume, e nemmeno nel bosco, e sprangava la casa alle 7 di sera. Ma col tempo Caterina si sposò, ebbe dei bambini e una servetta per sé. E quando i lavori domestici erano fatti, apriva la porta e diceva: su ragazzi, correte nei prati o al fiume o andate in collina, e non mi meraviglierei se incontraste la donna verde o il re del fiume o il ragazzo danzante. I bambini e la servetta andavano e Caterina li aspettava e si rallegrava quando tornavano a casa cantando e danzando con le braccia piene di fiori.